Vorrei che fosse la mia canzone peggiore, che parli di niente, neanche d'amore, con particolare attenzione per chi non sopporto e voglio veder morto. Oggi è nata una canzone che non ha senso e non ne vuole avere. Oggi è nato un ritornello che più ci penso e più fa vomitare. Le parole si guardano perplesse, poi dicono a se stesse: ma che ci stiamo a fare se tanto per cantare andiamo via di qua. Dicevo poc'anzi che dedico questi avanzi di rime e canzoni a chi mi sta sui coglioni, che nessuno provi a pensare che possa aver cercato un significato. Questa è proprio una canzone in cui mi sono perso, di verso in verso. Piange il ritornello, piange, falla finita, questa non è vita. Le parole si guardano perplesse, poi dicono a se stesse: ma che ci stiamo a fare se tanto per cantare andiamo via di qua. L'ascolto solo a un pubblico adulto che sia coinvolto e che colga l'insulto, mentre penso a una conclusione. Ecco, per fortuna si chiude la tortura. È finita la canzone che non ha senso e non ne vuole avere, e sorride il ritornello, vuole sperare di non ritornare. Le parole si guardano contente, poi dicono a chi sente che se per questi scherzi usate pure i gesti, ma non chiamate noi.